La noia disperata di quel bar. Amico, tu non sai cosa farei. Il caldo, la maglietta appiccicata sulla pelle, il mal di testa. No, il biliardo non mi va. Dicevo, agosto non finisce mai. Ti giuro, se potessi dormirei. Amico, tu non sai cosa darei in questo istante se al tuo posto lì seduta fosse lei. Lei, il primo amore, quella sera era quasi ogni ragazza che passava per di là. E tu che deridevi quel sogno e i miei pensieri, che rabbia mi facevi, ricordo, mi dicevi, al diavolo la noia, sali in moto, andiamo via. E mi ricordo di sere passate a rincorrere sogni e ragazze sotto un cielo d'estate, a giocarci bevute, cantavamo canzoni e poi salivamo in collina nel posto più in alto, più vicino alle stelle, ai misteri, alla notte, a giocarci i momenti di un tempo che adesso io ricordo così. L'estate, quell'estate se ne andò, io nell'autunno incontravo lei. Correva il tempo, Dio come correva, mi cambiava, mi ingannava e non si è fermato mai. Fa un caldo disperato in questo bar, mi annoio anche se adesso qui c'è lei. Lei che non immagina neppure cosa darei in questo istante se al suo posto fossi tu. Tu che con i miti di una sera, quell'amicizia e l'atmosfera, sei un ricordo e nulla più. E le racconto di come una sera d'inverno lasciavi per sempre le ragazze, gli amici, le nostre bevute, per non sognare più. Mai più. E le dico di un posto più in alto, in collina, più vicini alle stelle, ai rimpianti, alla notte. Poi appoggio le mani ai suoi piccoli seni per non pensare più.